Pier. Ciao, qua. Scusa. Aspetta Giulia che sono al telefono, un attimo, arrivo subito. Ok. Ah, 1, 2, 3, prova. Allora, Ronaldo. Ronaldo, sono se buona piombo, poi. Io se porta a piombo lo Real Madrid, dimmi se è uscito dalla Champions, ho preso 4-1. Già ho sentito. Speriamo che non cambiano idea, che si prendiano col difensore dell'Arsenal, perché quello non vuole la Juve, no? E se l'Arsenal vince la... Se può il caso che l'Arsenal vince la Champions. Che l'Arsenal possa vincere la Champions. Io penso più al Manchester City, l'Ajax è una bella squadra, il Tottenham. Poi il Saint Germain è sempre quello, e anche qualche altro, il Liverpool, e chi lo sa. Però, per come ha giocato ieri, è solito a fare 4 gol al Real Madrid, per quanto sia un pochino in crisi in questo periodo. Soprattutto a Madrid anche stavamo, dunque sono già eliminato. Lo so, cioè per quello gliel'ha fatta anche la Juve 3 gol a Madrid, quindi non è, c'era Cristiano Ronaldo, ma si è visto, il gioco era quello, che ne dicano, quando per 9 anni uno ha vinto 5 Champions e ha giocato per 9 anni in una squadra, non c'entra a fare. La mancanza di Ronaldo si è vista subito, tutti loro dicono di no, si sono attrezzati, hanno infatti, poi lascia perdere. No, ma la cosa più curiosa è che nel 2003 ne ha vinto il Real Madrid una dietro l'altra, e nel caso ha voluto essere che senza Ronaldo anche Modric ci si è lamentato, dice, Ronaldo è importantissimo, ci manca Ronaldo, ha detto. Addirittura perché faceva 50 gol all'anno, questo mi ha detto Modric, non è che l'ha detto uno qualsiasi. Ma Modric adesso si deve cercare il campo d'atterraggio, cosa pensi? Indubbiamente sì. Tu pensa che adesso non aveva nemmeno convocato a Marcelo e nemmeno a Isco per questa partita che ha fatto. E gli ha detto subito il risultato. E comunque ci aveva uno squadrone e secondo me ce l'ha ancora, evidentemente non c'è motivazione in quella squadra, nel senso che qualcosa è successo, non so, cazzo, ma 4 gol con i voli vattimi, c'era una bella squadra del Madrid. Io ho paura per l'Atletico, che l'Atletico è uno squadrone. Anche stamattina ne parlavo con gente che gioca a pallone e mi hanno detto forse 3 gol vogliono fatti l'Atletico, con la speranza che non ne facciano uno loro. No, ma io non ci spero nemmeno, perché con la condizione della Juve in questo periodo siamo già eliminati. Adesso puoi cominciare a pensare al prossimo anno, a niente, perché non ce la può fare. Con la condizione che della Juve, ma si è visto domenica contro il Napoli, sembrava una squadra che sta in diretta, sembrava ancora il 16, sembrava che non uscivano dall'area del rigore. No, non ce la può fare, sarebbe un miracolo, guarda, riuscire a fare 3 gol allo stesso come dite. Non ci credo, speriamo, ma io non ci credo più. Oggi c'è Porto Roma alle 8:30 su Rai 1, la guardo qua nella mia stanza perché lo voglio vedere, e la Roma deve vincere, se no è fuori, perché ha perso 2-1, hanno fatto un gol nel Portogallo, capito? Il Porto ha fatto un gol, quindi sono lì, si pettini 2-0, Bulla Roma è fuori. perdere 1-0, perché il gol fatto in trasferta vale l'ultimo. Basta che la Roma perda 1-0 e è fuori. Per cui, perché quando hanno fatto 1 fuori casa, sicché conta quello, conta. Lo so, anche per la Roma non è tanto semplice. Speriamo che faccia l'impresa dell'anno scorso, ma con i miei dubbi, quest'anno la Roma è proprio terra a terra lì. Ce l'abbiamo vista anche contro la Lazio, che ne ha buscato 3. Vabbè, la Lazio è una buona squadra, però non c'era tutto la Roma. Io ho notato che la Roma in Champions è molto più forte, gioca meglio del campionato, capito? Non lo so cosa può succedere. Lo so che sembra che sia esatto, lo so, però ha subito un gol, e quello, il problema è quello. A quello ne basta solo un gol in casa adesso. Dunque, se fanno gol, loro ne hanno fatto uno fuori. Se la Roma lo segna, è fregata proprio. Se un gol, vabbè, allora il discorso è già diverso. Allora il vantaggio è tutto per la Roma, ma sarà difficilissimo, sarà molto ma molto difficile, quelli si battono alla morte oggi. In Atletico comunque le mancano tre giocatori, il centrocampista bravo che ha giocato contro la Juventus, poi per un terzino, non mi ricordo i nomi, ma comunque tre giocatori importanti le mancano. Sì, d'accordo, lo mancano, sì, due o tre le mancano, lo so, però anche la Juve, la Juve ce l'ha titolare, ma come che non ce l'abbia, perché non ha centrocampo, non c'è niente da fare, sono in questo periodo, sono giù tutti quanti, però non solo il centrocampo, tutti, dal portiere, ma se fosse l'unico che ci salva il portiere, fino ad arrivare alla sinistra. No, speriamo, almeno che non si sono, perché è anche una questione mentale lì, sono tutte una questione mentale. Loro si devono mettere in mente che non hanno ancora perso niente e dunque devono andare a giocare dal primissimo secondo, non al minuto, dal primo secondo fino al 95esimo. Loro devono andare tutto, giocare a tutta forza, a tutta birra. Ma non ce l'hanno il fisico dell'Atletico, no Giulio, l'hai visto? Non ce l'hanno il fisico dell'Atletico. L'Atletico è una squadra forte, tosta, anche fisicamente, e giocano i Gurini e hanno un bellissimo centrocampo. Non è un centrocampo della Juventus. Sì, è una squadra difesa molto, si difende molto bene. L'Atletico si difende molto bene, oltre a essere fisicamente, poi non sono male nemmeno tecnicamente, sono dei buoni giocatori anche tecnicamente. Non è così, no. Poi l'attacco è a livello di quello della Juve, forse anche superiore, perché nell'attacco della Juve cosa succede? Non ha, perché gli altri giocatori me li ha demolti, per carità, sono così fuori forma che non è possibile, non sembrano nemmeno i giocatori della Juve. Dunque devono proprio pedalare molto, ma molto però, cosa che loro non è nella loro possibilità in questo periodo. Spero che ci sia un miracolo, almeno per fare una bella tripletta, e poi la Champions servono soldi per acquistare, per coprire, per fare, sono un sacco di soldi, capito? Il campionato lo vince perché 16 punti non la prende più nessuno, la Supercoppa l'ha vinta, peccato la Coppa Italia. Se riesce anche a fare la finale di Champions, almeno la finale di Champions, fa la finale di Champions c'è una buona quota. Caspita, alla finale mi sembra che sono 15 milioni, se riesce ad arrivare in finale, è un poco. Fino adesso non ha fatto un grande budget, mi sembra che adesso è di ultimo 7 milioni e mezzo appena, non è molto per niente. Se arriva almeno, se non altro almeno alla semifinale, qualcosa entra in casa, ma quello poco importa, perché tanto io già te li ho studi, la Exxon già ne ha di su. stato, ha fatto un fatturato nel 2018 1.350 miliardi, meno sono poco, si può comprare tutta la squadra d'Europa, si può comprare con questo. Lo so, sì, però ti ripeto, è una cosa un po' da vedere, ma che va a vedere ci usa gira? Non si sveglierà, non si sveglierà qualcuno, speriamo, così almeno, e allora ancora nessuno, e no, noi sono stati meno 25 passate, e insomma si comincia a essere già un po' tardio. Scusa che mi ha chiamato mia moglie. Ehi. Non lo saccio, non lo saccio. Adesso stasera vediamo a Roma che impresa fa. Altra squadra molto forte il Porto, soprattutto in casa. Beh sì, andiamo credo. Giocano tutti oggi, non c'è da fare, non lo fa. Giocano tutti. E poi tutti hanno una mentalità europea. Non è come l'Italia, no? Che hanno solo una mentalità. Migliorato in fase difensiva, anzi senza forze rispetto a quando c'era Sarri, però ha poche conclusioni quest'anno. Per non parlare poi dell'errore che ha fatto Ancelotti l'altro giorno contro la Juve, capita, e il miglior attaccante che hai nel momento, boh. Io non lo so questi allenatori che mentalità hanno. Un favore, ci hanno fatto una cortesia, ma me ne studi a mimici, me ne studi, prendere un difensore, prendere un centrocampista, gioca anche che giocare a 4, gioca a 3, insomma, ma togli un esterno, no, me ne cavo proprio un centrale, me ne cavo il più pericoloso che c'era. L'ho visto, infatti sono rimasto così. No, ma ce lo ci deve stare bene. Così era convinto di allenare Napoli, vinci il campionato, Champion. È stata la prima a uscirci dalla Champion. E manco l'Europa League vinci. Assolutamente. Manco l'Europa League vinci. Non vinci nulla. Manco la Coppa, cos'è? La Coppa Italia, anche Coppa Italia, no, se no anche la Coppa Italia è uscita, boh, non mi ricordo. Non vinci nulla Ancelotti. Almeno noi qualcosa la vinciamo. Il campionato si può dire che gli è in cassetto, per cui non credo che se prende il campionato la Juve, e almeno se fanno giocare la Juve under 23, lo perderebbe. Mica per prendere la Juve, sai cosa deve succedere? Che deve prendere in queste ultime 10 partite, mi sembra che sono rimaste, 10-11, una cosa del genere. Dunque siamo alla 27esima, al 38esima e mancano 11 partite alla fine del campionato. Se queste 11 partite non deve prendere 5 partite e mezzo deve perdere. E come ti fai? Ma io invece come ti sembra un mese? Ma dai! Capita! Però deve anche vincere il Napoli, oltretutto, no? Non è solo che deve perdere la Juve, deve vincere anche il Napoli. Che vediamo bene, ormai il campionato è già fatto. Sì, vabbè, ci sono gli altri scontri diretti, c'è il Milan, deve giocare a Milano, Milan-Juventus, il Milan non è il Napoli, il Milan c'ha una bella squadra, stavolta c'ha veramente una bella squadra, 48 punti ne ha preso all'Inter, 8 punti con i biliardi, una deve dall'altra, non ha preso neanche una, c'è andata a Bergamo, ha vinto contro l'Atalanta, sei scherzato. Ne ha vinto tre fuori casa, ne ha vinto. Milan è una bella squadra. Io temo più il Milan che e tutto il resto, perché a questi livelli il Milan veramente merita il terzo posto assoluto, se non il secondo pure, perché è troppo distante la Juventus, non ce la fa a prenderla. Però se passa, se arriva se continua a questi livelli, il Napoli deve stare molto attento. Bella squadra, mi piace come gioca, veramente. Hanno fatto degli acquisti fenomenali. Lo stavo leggendo su Sky Sport 24 che appunto Allegri va via a fine campionato, che vinca o non vinca, niente, va via, va via anche Coso, l'allenatore dell'Inter, e molto probabilmente anche le fanno fine campionato anche a Di Francesco. E si vocifera che ad allenare Juventus viene Zidane, così stava, c'era scritto, ma in pole position ce ne sono tanti allenatori, eh? Lo so. E una cosa è certa, no, il Milan deve andare a Torino, il Milan ha già perso in casa con la Juve, dunque deve andare a Torino. Non è quello. No, la Juve deve andare ancora a Genova, deve andare la prossima partita. E poi avremo l'Empoli in casa. E poi deve andare a Cagliari. Deve andare la Juve, quello sì. Ma anche a Napoli non è che sia così tanto messa bene. Perché Napoli adesso, intanto la prossima partita, Napoli vediamo con chi gioca. Non ti credi che sia stato semplice, adesso siamo nella finale del campionato e le squadre cominciano a svegliarsi anche. Allora, Napoli la prossima partita costa solo, guarda. La Juve ha l'Udinese in casa, ma il Napoli deve andare a Reggio Emilia a giocare con Sassuolo. Non è facile, cosa credi, sia facile. Io ho capito, ma sono squadre materasso. Non è che già è una bella squadra, già c'è l'alza solo, una bella squadra, c'è Berardi, c'è Lasagna, come ti chiama? Gianni Ali, giocatori bravi, c'è anche quell'altro che sta sempre segnando. Ma a Genova contro il Genoa o contro la Sampdoria deve giocare Juventus? Contro il Genoa deve giocare. Deve andare, dopo l'Udinese gioca a Genova contro il Genoa. Poi successivamente riceve l'Empoli, riceve a casa, non in casa. Poi deve andare a Cagliari. Dopo Cagliari arriva a Viva, a Torino. La crema, gli questo sul medico non mira. No, assolutamente. Solo che la Juve poi deve andare a Roma. Deve andare. Dopo il Milan la Juve deve andare a Roma. Quello, il problema è anche quello, eh. E poi abbiamo l'Atalanta in casa, però abbiamo. E dopodiché di nuovo a Genova per la Sampdoria. Ma quella è l'ultimissima partita, quella della Sampdoria è l'ultima partita. Anche quella con l'Atalanta è la penultima, perciò anche quella della Roma è la terz'ultima partita, perché il campionato è già fatto, è già finito quella. Ma... Lo so. Cagliari Juventus ce lo avevamo già affrontato, non ti preoccupare, quella vado e me la guardo, si abbiglia luci. Si abbiglia luci. Adesso vediamo a che ora gioca. Non l'ho letto ancora nessuna parte. Spero che giochi alle 3, alle 15. Se gioca alle 8 e mezza rimarremo lì, rientriamo al giorno dopo. Tanto io non è che ho oramai non vado più a lavoro, quindi 2 anni che stavo che facevo sempre il pronostico, ci vado, mio genio. Quando facevo il pronostico e manco male non compravo mai un biglietto, perché a Cagliari faccio una telefonata e me lo portano all'ingresso allo stadio il biglietto, cioè tutti questi colleghi lì, non ne ho problemi. Però non riuscivo mai ad andarci, come dice andiamo, andiamo, preparo tutto, arrivi a telefonata, dici il video, ogni domenica e sabato dici il video, rivesti dici il video, già te lo ricordo, adesso che posso andare ci vado, non mi interessa. Beh certo, adesso c'è più possibilità di andare. piaci, tutto perché sei libero, per cui certo se fa una bella passeggiata, perché? Sì, speriamo che io così giorno allora, così almeno può rientrare in serata, se non deve stare lì, oh, può rientrare lo stesso, mi non è che la partita finisce alle 10 e mezzo, alle 11:04, là, 11:20, si giocherà la sera, la notte. Una si è già stata, non è quello il problema, ma se poi sono voi staccati puoi rimanere lì, certo, e fai la cena, ti fai e ti prendi la camera e dormi lì, che problemi ci sono, chiaro grillo, vabbè, gli altri si attogliessero queste soddisfazioni della vita, non può tanti anni di lavoro, capita, cosa vuoi, privarti di tutto, no, vai, è tranquillo. No, abbiamo già organizzato, già andiamo. Se giocano alle 8:30 non rientriamo, ma non andiamo in albergo, assolutamente. E i Crisimoni, gli ex colleghi, mi hanno già avvisato che se gioca alle 8:30 sono ospite da casa dei miei colleghi di Cagliari. Non c'è un problema. Ceno lì, dormo lì e poi parto la mattina, capito? Non è quello il problema, non si può dire in albergo, ho voglia di, che ce n'è di ospitalità lì, ho voglia, c'è un collega io di Cagliari che ci siamo praticamente, quando io sono andato via eravamo in coppia assieme, lui però fa servizio a Santa Maria Covina dove ero io, eravamo in coppia. Ci dividevamo i ruoli, lui quando non lavora il sabato va via il venerdì alle 2 e rientra domenica mattina per prendere servizio, ho capito, perché fa un sabato sì o no, una domenica sì o no, come facevo io, no? Una domenica aspettava lui e una domenica aspettava me, un sabato a lui, un sabato a me, poi eravamo in coppia, quindi me l'ha già detto, mi chiama Zio Claudio. Oh, si grazie, vai a vedere la Juventus, se ricordati, faccio cambio a turno e vieni a casa, c'è una bellissima casa lì all'uscita di Cagliari, quindi no, problemi non ne ho per quello, dipende, ma adesso bisogna vedere, mio Genoa ha già detto che si liberava, no, che non ci siano altri problemi, ma spero di no. Certo, quando è così allora va anche meglio, così non devi spendere troppi soldi nemmeno, e va bene, certo, e purtroppo, ma io adesso sono da un po' di tempo senza andarci a Cagliari, per cui, ma andiamo a guardare in televisione, no? Io ci vado, me la guardo in televisione, no? E va benissimo, così vedo anche tutte le azioni ripetute con la moviola, eccetera. La Juve dovrebbe sviluppare un gioco sicuramente migliore, sai, quando campo pesante non è certo adatto per le qualità della Juve, allora incomincia a essere un pochino più difficile, però speriamo bene comunque, dai. È un bel campetto quello che sta giocando il Cagliari, questo è il mio collega, un bel campetto, poi vabbè adesso faranno stadio nuovo. Sarà sicuramente tempo bello, ma hai detto che la terza, quarta, cos'è? Quindi siamo già ad aprile o a fine marzo. Adesso ti dico quando è la data, aspetta che ti dico quando è la data. Infatti, in quel periodo ormai il tempo è bello, no? Senti, sta già un vivo, quando sì, si può immaginare, è esattamente. Thank you. ad aprile il tempo è buono, oh, sì, ma infatti, oh vabbè, bisogna sempre vedere, magari c'è con le piogge o i temporali di passaggio eccetera. No, mamma mi ha fatto niente, ha chiesto, pare che non sia neanche 100 euro il biglietto. Ma se vuoi dire la verità non lo so, non lo so quanto costa adesso, sicuramente è aumentato rispetto a prima, sicuramente, anche perché quest'anno hanno aumentato tutti, con la scusa che è arrivato Ronaldo in Italia, che hanno approfittato tutte le squadre, tutte le società, tutte distintamente hanno aumentato il prezzo del biglietto. O perlomeno ma aumentano proprio per certe determinate partite, che succede anche quello. Va a vedere. Se non te li fanno pagare 100 euro poco ci vorrà a me. Io penso almeno un'ottantina di cosa. Poi bisogna vedere in quale posto vai. Allora, in centrale 110 euro, questa lo dice. 110 euro. 95 nei distinti e in curva mi pare sia 70. Sì, vabbè, fate giro di differenza se bisogna mettere i cristiani. Sì, vabbè, ma anche nei distinti va benissimo, non c'è problema di ciò. Nei distinti è un'ottima posizione, va bene, no? Si vede benissimo la partita. Poi lì lo stadio non è immenso, non è, capito, e dunque non già è raccolto rispetto agli altri. Magari questo suo stadio sarà sicuramente più grande, sarà perché ci sarà un altro progetto diverso, per cui, ma oggi come oggi lì a 4 non credo che sia così tanto distante per vedere la partita. No, quanto è attaccato a Cagliari, ci ho lavorato io a 4. Ci ho lavorato io a 4 all'impianto di Isarenas, lì c'è un grosso potabilizzatore, ci ho lavorato esattamente nel 2002, quindi non è distante, è vicinissimo, perciò non è un problema. Infatti è vicino dove c'è la casa questo mio ex collega, perché lui è all'uscita di Cagliari, capito, proprio per andare a 4, perciò è tutto lì vicino. Sì, no, ma intendevo, non è troppo distante la tribuna dal campo, intendevo quello, non so come quattro ore, non so, facciamo le gare io da Cagliari a 4, come ho detto, ho fatto un sacco di gare, Cagliari 4 Sant'Elena, 4 Sant'Elena a Cagliari, e quante volte non le ho fatte quelle gare, quando ero giovane che gareggiavo, un sacco di volte, per cui ci puoi immaginare, a volte, scoprire anche il percorso, per cui ancora oggi lo fanno, la fanno ancora oggi quella gara, sicché, alla conosco, conosco metro per metro. Sì, non ci andavo spesso a Cagliari a ritirare materiale, a portare materiale, a girare da tutto. E vabbè, speriamo bene, va, così come va, speriamo bene, comunque, allora Pianici salta, cazzo Pianici una giornata le danno, quindi salta, cosa salta? Quella col Genoa? No, se mi danno una giornata, saltano di mese, basta, fatta venerdì, salta, poi infatti dovrebbe essere una giornata, perché non si è comportato male, appena che l'hanno espulso, basta, se n'è andato, dovrebbe essere una giornata, e anche Cartello è qualificato, per cui venerdì non ci sono, né uno né l'altro, assolutamente. Vediamo un po' come combinano, dovrebbe, speriamo bene quello che si dice. E adesso se mi occupiamo, ci abbiamo il pupillo di Allegri, Besciglio, canto come si vede sui valori, un giocatore spento così, proprio acerbo, come dice mio fratello che è milanista, non voglio vedere manco quando era da Milan. Per carità, vabbè, giocherà De Sciglio con Alessandro, solita squadra, Matuidi a centrocampo, Bentancur con Piedita, non so, Fortunato, non lo so, giocherà Gacciano, sono tutti due difensori e riquadra chissà in attacco poi forse gioca Dybala perché Bernardeschi se lo tiene buono per entrare al secondo tempo, se lo tiene buono per l'Atletico Madrid e quindi l'attacco sarà Ronaldo, Mandzukic, Dybala oppure Bernardeschi. No, vediamo. L'Udinese non è una squadra, squadra da sottovalutare, mi Giulio. Attenzione, che l'Udinese ha dei bei giocatori. Ah beh certo, no, ma poi le squadre di bassa classifica così, la Juve, si soffre sempre, non so per quale motivo, forse perché se la prendono così un po' sotto gamba la partita, ma ha sempre sofferto, ma in tutti gli anni, in tutti i campionati, tutte le volte che gioca con le squadre in zona retrocessione ragazzi ha delle difficoltà. Non sottovalutare che la Juventus deve giocare col mitico Quagliarella. di Ronaldo praticamente, 34 anni a Cogliarella. Cogliarella ha fatto due gol con la Fiorentina. Capita, non è poco. Cioè contro lo contro, ha fatto due gol. È un giocatore che va veramente bene, va bene. È in formissima, quest'anno è in formissima. Poi fa certi gol così belli. Capita di tacco, di mezza rovesciata. In acrobazia di ogni gesto, è eccezionale, di testa, cazzo, perché hai gli stessi gol di Ronaldo, almeno nello stesso, e non è la squadra di Ronaldo quella, se noi dovessimo parlare anche di questo, Quagliarella non era la squadra che era della Juve però a fianco, tu per i gol li ha fatti proprio veramente perché è forte, certo che... Quagliarella l'ha passato a Ronaldo, l'ha passato non so se di uno o due gol. E più avanti Quagliarella. No, ma sono 19. Tutti e due 19 hanno, 19 gol. Con quella doppietta che ha fatto domenica ha raggiunto Lebrone, roba 17, ha raggiunto Ronaldo in testa alla classifica. 19, sono pari. Io pensavo Ronaldo facesse un giro del ritorno. Avesse già preso il volo almeno 23, 24, 25 gol, invece fermo, tenendo conto, ne abbiamo già parlato di questo, che non le danno palla, capito? Con Napoli Ronaldo si è avvicinato alla Lega, non so se l'hai vista la partita, l'ha incazzato nero e gli ha detto, perché ha detto il cronista, si è lamentato con Allegri che non arrivano palle, non arriva palla, non c'è gioca. Infatti, ma lo so, addirittura gli ha fatto segno con due dita, come per dire, due palle, adesso non bisogna vedere cosa intendeva, due palle ho ricevuto, oppure due attaccanti voglio, o vicino, non lo so che cosa intendeva, probabilmente diceva ho ricevuto due palle, basta, no? Non è possibile. Poi quando io non riesco a capire anche questo, a te la palla Ronaldo, ma quando mai una squadra non deve dare mano forte in attacco? Invece no, rimangono tutti quanti addormentati e lui deve arrivare da fuori aria deve arrivare in porta da solo. Non è così, no. Devono seguire l'azione. Affiancarsi a lui in modo che lui possa destreggiare e soprattutto possa aprirsi la difesa, perché tutti quanti vanno a marcare Ronaldo e gli altri invece se anche loro non si introducono anche loro nell'attacco, è chiaro che la difesa ha sempre la palla da recuperare, non c'è da fare. Anche loro vanno in attacco, allora la difesa deve pensare a mancare anche gli altri e dunque a tu di pensare Ronaldo. No, ho visto, non ha compreso, non ha capito a me questo particolare. È un tutore, ma tu lo dico io, l'ho detto anche mio fratello, è un tutore, un anno in un anno, non un anno in un anno è. Speriamo se ne vada, così dicono che va via. Che arriva quello di Zidane, che Zidane alla Juve, vabbè, che potrebbe anche andare bene, ma secondo me ce ne sono altri giocatori. Però è tutto fermo, silenzioso, il mercato di giugno, non si sta parlando di Marcelo, di altri giocatori. Sì, no, ma anche oggi c'era sulla... l'ho messo un poco fa su internet, la moglie per come ha parlato Marcelo è già della Juve in pratica, per come ha parlato la moglie, perché non l'hanno convocato per giocare contro l'Arsenal. E allora pensa che anche Isco non c'è nemmeno andato a vedere la partita, dice no, ma non sono convocato, sempre in tribuna sono convocato, cioè in partita. E allora lo fanno al manco, non c'è nemmeno andato a guardare la partita allo stadio, sono in rotta di collisione tutti e due, no, sono venuto dal VAR, quindi se ne vanno tutti e due, se ne vanno. Allora, volte addirittura i tifosi stanno reclamando Perez, il presidente, di andarsene lui, si può immaginare. No, va bene, no. Certo che fine che ha fatto il Real Madrid. No, il caso ha voluto, perché i giocatori di prima ci sono sempre nel Real Madrid. Veramente faceva giocare la squadra era il fatto che c'era Ronaldo. 50 gol l'anno faceva, anche molto ci si è lamentato, ma non è poco. Mica lamentarsi Modric non è semplice, perché se pensi che il pallone d'oro dunque lamentarsi lui, si lamenta il pallone d'oro, non lo so più. Il pallone d'oro pure della Champion, eh? Lo immagini tu a che livello li siamo. Non lo so, adesso vediamo se nel mercato di giugno c'è questo acquisto. Io avrei portato dentro anche a Isco, tranquillo, perché Isco così è centrocampista della Real. Si è parlato anche di Casemiro, che era Casemiro, sembra che lo voglia la Juve, lo vuole anche il Milan, Casemiro, e anche quello. Cioè, c'è molto malumore in quella squadra, molto però malumore, stanno bisticciando, per cui cosa vuol dire? Va bene, Sergio Ramos era qualificato, mi sembra che per quello che non ha giocato, mancare Sergio Ramos, capita, è come praticamente il pilastro della difesa. Sergio Ramos è fortissimo, per me Sergio Ramos oggi come oggi è il più forte centrale del mondo, non ci sono dubbi, io penso che sia così. Vabbè, ma siamo sempre lì Giulio, cioè una squadra attrezzata, manca uno ci deve essere l'altro. Cosa vedi quello che è successo alla Juventus, mancano i due perni, Chiellini e Bonucci, è successo un disastro in Coppa Italia. Cioè, è così. Però sì, Sergio Ramos l'ho visto, è un grandissimo giocatore. Come c'è la Maisco? Isco cos'è? Centrale del Real Madrid. Isco giocava il centrocampista, ma il centrocampista d'attacco però è quello. Dunque, praticamente era la palla in pratica di Ronaldo, era insieme a Benzema, anche perché giocava più Isco che bene, e perlomeno l'allenatore Zidane faceva giocare più Isco che bene, quando era un giocatore che ha una grande intesa con Ronaldo, sai, i giocatori che giocano dopo tanti anni si conoscono la memoria, si conoscono tutti i suoi movimenti, conoscono, e quello è importante, è un po' come gioca a Napoli, come si conoscono la memoria, quello anche nemmeno la testa solleva per vedere se c'è il compagno o meno, lancia il pallone in quella posizione perché sa che quello c'è. Perché ormai è una cosa automatica, è un sistema di gioco automatico, si conosce la memoria e sanno che quando io passo il pallone a quella distanza, con quella potenza, con quella parabola, so che lì in quella posizione, per dire c'è Milik o c'è per dire un altro giocatore e così via, è importante questo. Ecco perché Ronaldo in spagnolo l'altra volta in un'intervista ha detto appunto che la Juventus è forte, una squadra che gioca, però le mancano i due perni, che infatti si riferiva a Isco e a Marcelo, avanti compreso, perché lui se dovesse arrivare Isco e Marcelo, allora è un'altra cosa. Ma io questa Tannieri ho detto, quanti sono in uscita a Real Madrid? 1, 2, 3, 4, io via, tutti a Torino, vamos! Magari, capita, sarebbe veramente una gran bella cosa. grande di età, però è un grande giocatore e praticamente al momento è uno dei terzini più forti del mondo. Sicuramente è meglio di Alessandro, questo non c'è più, nonostante che Alessandro è più giovane, ma non c'è paragone, è tutta una famiglia, questo senz'altro. Poi al prossimo anno vediamo un po' se questo Davis se lo prende veramente la Juve, poi questo Ramsey, quest'altro mediano, anche quello dicono che è fortissimo, vediamo bene, anche quello dell'Atena, Ramsey dell'Atena, no? Perché se vuoi immaginare, l'Atena, là è giocatore buono lì, no? Non scherzano. E al prossimo anno, quello è Pantalato, è anche parametro zero, perché non paga nemmeno l'ingaggio, paga semplicemente lo stipendio che si mette d'accordo, mi sembra che si sia messo d'accordo a 7 milioni, 7 milioni e mezzo al mese. Figurati. Già va bene. Beh, lì sarebbe, te le immagini, Isco centrale d'attacco, Marcello a destra, Cancelo a sinistra o viceversa, intanto possono fare uno e l'altro, Casimiro dietro Ronaldo, mamma li turchi. Riportare la mediana, ma riportarla veramente e ringiovanire la difesa, perché ancora Chiellini e Bonucci cosa possono giocare ancora? Un anno a grandissimi livelli, ma sempre cercando anche di riservarseli lì, perché non è che possono fare tutte le partite o lì, perché io sono sempre dell'idea che il gruppo che vince non si deve mai smontare, al massimo cambiano un giocatore, due, esagerando, ma io ne già Barzetti di Giamba, ma quando mai, ragazzi? Come fanno questi qui ad avere un'intesa e avere sempre una forma all'apice della loro possibilità? Non è possibile se tu me li fai girare continuamente. Ma cosa gli dici? Visto gli era il capo, è lui che ha girato di testa, è per quello. Loro se ne vogliono mettere, che dice, perché se non dati se ne vogliono andare. E se ne vogliono andare, ciao, a venirsi. Però formati un gruppo che deve essere quello titolare. Capi, sta così. E compri i giocatori, perché in una squadra di calcio ci vogliono 3-4 campioni, che vogliono 3-4 campioni e tutti gli altri devono essere operai. E quando si gioca così la squadra è formidabile, capita, perché i campioni sfruttano il lavoro degli operai. Ecco, registrato. Ma è mai operai per i giapponi. Ma vabbè, vediamo cosa succede. Avanti Massimiliano. Cappa, buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Giulio, poi lo so che c'è ancora in ruota. Sì, ci sento Massimiliano, ciao. Dunque ci siamo solo noi tre, al momento, sono i primi. Ah ok, no, perché ho attaccato l'antenna adesso. Ho messo la radio così sopra lo sgabello, giusto per ascoltare, là, se c'era qualcuno. Poi mi sto cucinando due bietole, ogni tanto scendo a controllarmela. Ok, buono, le bietole. Grazie per l'insalata, è l'Umbria. Sono buonissime. Anche affettata sono buone, perché no? Con le uova, la frittata. E ti fa anche la seconda, per cui va bene. Che bene, qua. Ehi, l'altro giorno le ho fatte in campagna Matteo un po' di bietto, sono dolci che fanno. E allora Massimiliano, com'è stato il rientro dalle ferie? E com'è stato, caro? Tranquillo, tanto già lo sai, io vedi non ho giovato perché stavo facendo qua, quindi ferie niente. Adesso sabato mi finisco questa camera, devo farle un'altra mezza passata di fino, in una parete, in una mezza parete anzi, e poi il 25 di questo mese mi consegnano la cameretta, così me la piazzano. E devi fare quello dove hai fatto con le tracce, da finire lì, bianchina tutto, e così poverina anche la bambina è a posto. Se ti puli la mese ai piedi tutto quel... questi lavori che c'hai, il lavoro più grosso l'ha mai fatto. Va bene, avanti Giulio. Ok. Sì, Massimiliano, quando uno si fa i lavori per casa sua, sono lavori veramente ben pagati, nel senso che il tempo che perdi è sfruttato bene, ma bene veramente, è rubito, ci mancherebbe. Intanto, quando ci facciamo noi personalmente, ecco, sicuramente meglio che quando chiamiamo qualcuno. Ma ci sono tutti. Vabbè, dai. Già va bene quando si fa per casa, è tutto di guadagnato, anche se uno ha figli che non si può riposare, però il solo fatto di averci fatto una cosa importante per la casa, quello è già soddisfacente, Massimiliano, sì. Sì, no, vabbè, qui è tutto per casa mia, Claudio già lo sa. Il 90% di tutti i lavori che ho fatto, cucina nuova, bagno, impianto elettrico e palle varie, è tutto fatto dal sottoscritto, quindi il 90% è attenzione. No, l'unica cosa, Giulio, che mi è veramente dispiaciuto è buttare giù questo mobile che avevo fatto un mobile, Claudio già l'ha visto, era lungo 3 metri, largo quasi 60, dove mia moglie ci metteva tutte le pentole, tegami, tipo, diciamo, una dispensa. Quella me l'ho fatta tutta io, quindi quello mi è dispiaciuto. Purtroppo, alle volte si deve sacrificare qualcosa proprio per ottenere un'altra, però quella che hai fatto sicuramente è più importante, perché se hai fatto una cameretta per la bambina è sicuramente ancora più importante. Certo, poi le tovaglie e tutto quello che ci metteva già vi arrangiate ugualmente, non è che non vi arrangiate, purtroppo è così, Massimiliano, e alle volte bisogna sacrificare certi mobili che dispiacciono, proprio perché, però, quando si fa per migliorare va sempre bene, perciò non te ne pentire più tanto, fregate, hai fatto una miglioria in casa, per cui devi essere contento ugualmente o Massimiliano. Pazienza, vuol dire che i soldi che avevi speso per quel mobile ritorneranno, diciamo così, di come cosa, come comodità, poi adesso sia per la camera per la bambina e per il resto da casa anche. Sì, vabbè, ma Giulio, alla fine diciamo che tutto il legname che ci ho messo lì, ripiani, sportelli, bordi e tutto l'ambaravam, lì ho recuperato tutto, lì mi faccio un bel mobile per metterci le radio, capito? Faccio dei bei ripiani e ci metto un mobiletto fatto carino con le cornicette, poi mi metto le radio perché da qua le devo togliere giustamente, quindi mi devo trovare un altro alloggio. Appunto, sì, che vedi bene che diciamo che è meno doloroso il fatto che tu si sia liberato di quel mobile, perché in parte usi il materiale e ti arrangi ugualmente, sì, che vedi bene. Tutto è, quando si rinnova va sempre bene, Massimiliano. Poi chiaramente qualcosina bisogna pure buttare, sacrificare, soprattutto, o al limite, se serve a qualche amico, a qualche fratello, qualche sorella, non so, può anche servire, questo su chi, che attività. Tu pensa che quando un anno fa è morta mia madre, no? Casa di mamma aveva una bellissima casa, adesso quella casa l'ha presa mio fratello, si è trasferito mio fratello, si è trasferito, anche se la casa ce l'aveva lo stesso lui, però quella che dove abitava prima se l'ha affittata, è andata a vivere a casa di mamma, e dunque ha buttato fuori tutti i mobili che c'erano, tutti i mobili belli, tutti i mobili nuovi tra l'altro, e li ha dovuti tutti quanti dare, li ha regalati quasi tutti, qualcosina ha buttato perché non è riuscito a regalarli, però si è comprato tutto nuovo, ha fatto tutto nuovo lui, va bene, avanti Claudio. E io stessimo per i miei soci, andate tutti a un amico di Luca, che c'era una campagna, è venuto, si è caricato tutto, se l'ha portato lì e si è arrivato tutta la campagna. Tutto, anche il salotto, tutto, tutto, io c'avevo la roba mia, quindi, anzi ne ho comprato anche nuova, perciò. E vabbè, no, ma ci vediamo, ha fatto un bel capolavoro, ti aspetta. Cosa vedi ha fatto? Ha fatto una bella casa adesso. C'è una bella cucina grande giù, sopra le stanze da letto. Ha fatto una cosa molto bella, tutto interno, la scala interna, tutto fatto bene, regolato. E Massimiliano, te l'ho detto, quel mobile recuperi la roba che ti serve. Attento che Daniela ti ha detto che non è buono, mi sarebbe bene del radio, quindi tappa di me e pone il lucchetto. No, Cla, io quando ripiazzo tutto, già lo sai cosa devo rimettere. Mi faccio un piccolo mobiletto dove ci stanno tre radio, sotto alimentatori e sotto ancora un ripiano per appoggiare qualcosina. Lo faccio con gli sportellini, in modo che quando hai finito di modulare, chiudi e non si vede più niente. Tipo quello che ho fatto io a dare il dottore. Tipo quello, io gli avevo fatto il mobile a Gianni, e tutto così, e lui dice io me lo voglio tenere in camera, me lo tengo, però quando è chiuso non si deve vedere, non deve, cioè i mobili devono appartenere anche alla, il mobile deve appartenere anche alla camera da letto, a differenza magari di tavolini e dei ballevati. Ho fatto questo mobile con gli sportelli, addirittura c'è anche un piano estraibile sotto il primo comparto della radio, che è estraibile, lì ci avevo messo addirittura il portatile, il computer portatile. Insomma, un bel lavoro, tutto chiuso. Lui quando finisce di modulare, chiude tutto di un mobile, non vede niente. Non vede il film, non vede niente, tutto chiuso. Un bel lavoro. Poi gli avevo fatto anche un mobile per mettere l'acquario sopra, anche quello l'ho fatto su misura precisa e identico della grandezza dell'acquario, in modo che figurasse tutto un mobile intero. E poi gli avevo fatto anche un mobile dello stereo, con tanto di sportello e con tanto di sportello ribaltabile sopra, dove si gira i dischi, insomma una cosa fatta come si deve. Sì, è stato contentissimo, tranquillo e pacifico. Per cui va bene così. Bene, vai qua. Sì, già l'ho visto quello. No, beh, io a me è fatto un altro tipo di lavoro. Quando uno c'è la stanza, al posto, Massimiliano era organizzatissimo, tutto ordinato, tutto chiuso lo stesso, però c'era in cucina. Adesso invece lì è nata la stanza della bambina, quindi adesso si deve organizzare e farselo da un'altra parte, però sempre chiuso come ce l'aveva prima, capito? E anch'io quando ero nell'altra casa, che il posto era c'era una stanza in meno, mi ero organizzato in un angolino e avevo fatto tutto lì. E vabbè, il posto è questo, la passione è tanta, però Massimiliano, un radio buono è quello che ti serve e basta, il resto rimane dentro le scatole, gappa. Sì, Clare, tanto cosa ne fai di avere mille radio in giro, per che cosa? Fa niente che vuoi, fatti una chiacchierata di un paio d'ore la sera, ne usi una magari l'indomani, togli quella, ne metti un'altra, giusto per farle girare, però alla fine di avere una scrivania. Sono un radioamatore, ma tu sei radioamatore, quindi c'hai tutte le radio che ti servono. Ma a me, che io sono un classico CB, io mi metto la radio che mi serve per farmi la chiacchierata. Basta, cosa me ne frega di farmi una scrivania e mettermi tutta la roba che ho negli scatoloni e mettermela tutta sopra la scrivania? Ma cosa? A piglia più ore, E ne hai un bel roba, ti metti a mettere tutta la roba che c'hai, compresa quella che c'è dentro le scatole, vivo la scrivania mia, vivo, e non battere manco. No, Massimiliano, ma alla fin fine l'ho fatta io anche la scelta, perché te l'ho già detto, cioè la L io non ce l'ho più, l'ho smontata, piegata e l'ho portata diversi mansarde. Ho una base solo, quella parete, dove ho le radio essenziali. Perché? Perché non serve a niente avere tutta la roba esposta, era un mare di polvere tutti i giorni, capito? Tutti i santi giorni, smontare, pulire, fare, quindi mi sono tenuto le VLU e il 440 e basta, boom, intanto l'attività vai. Adesso mi ero al telefono stasera proprio con Andrea, sto terminando queste finestre, come finisce di terminare questo lavoro? Una domenica mattina, ha detto un sabato mattina, ci sentiamo, viene, se sei libero ti avviso, perché Andrea è una brazza, quindi in tre siamo più che anche troppi, anche tu e dove di Batre, quindi io mollo, tenete, abbasso il sistema, ne smonto tutto, conservo tutto e basta, non, cioè non serve più a niente, cosa, è una cosa che non, sono soldi buttatimi alla fin fine. Ho boccato a delle cose, me ne sono pentito di aver buttato, ci sono più di 3.000 euro sul tetto, lasciamo perdere, vabbè, comunque, mando le ciance, ne smonto tutto, conservo tutto, lascio vedere come abbiamo già detto, e lascio una verticale VU e boh, il resto ne tolgo tutto, e l'antenna della 27, boh, finiti i giochi. E tu c'hai anche quel di Polo, casa che ti fa tutto, guardate, non futi, di avere 2.000 euro di antenna sopra il tetto, ma per che cosa? Cioè, se non fai attività, non te ne vai nuda, capito, cra? Cioè, io sono di quel parere, anche perché il palazzo è molto alto, il vento, diciamo che quando sbatte lì, lo prende in pieno, e stare sempre temendo, faccia, alla fine, se non li usi, ti tieni le classiche antenne che ti servono e non riesci a univare tutto, fai grande pulizia, le conservi pulite, le fai un paio di foto, se le devi vendere ti rivendi e ti tieni l'essenziale, non ha senso tenere tutte queste grandi antenne pappagosa. Infatti è quello che dico anch'io, se prendi, te le vendi le antenne, ti metti qualche di polo e ti difendi lo stesso, e se devi fare attività le fai lo stesso, e quanta gente c'è che ha il di polo e fa attività? Ah, ti dico di più, addirittura una volta vado alla CB, nel CB, cioè esiste un coso, un malo, esiste, mi sembra che costa 60 euro, una cosa del genere, che ti trasforma l'antenna in HF, l'antenna in HF, e va bene, e ti dirò di più, chiedi a Stefano, che c'era lui quel tipo di malo, che trasforma l'antenna, e Stefano ce l'ha a casa sua quella, io Claudio, cosa ti ne vai? Tanto fai collegare anche la moto ogni tanto, va bene anche quella. Va bene, altro che se va bene. Perché guarda, mi dai, io te lo voglio svelare un segreto mio. Io ho nel primo periodo che avevo preso con il K, ho collegato più volte in 45 litri. Sai come accordava la moto a tubo ai 45 litri? Una meraviglia. E io parlavo dalla Antitalia alla Battitalia tranquillamente e tutti mi davano 9,5, 9,10, 9,15 con la moto a tubo, naturalmente con l'accordatore entro il contenuto dell'apparecchio o qua. Perché vedi bene, è una di una putti, per fare collegamento della moto ogni tanto ti arrangi in quel modo, come ti ho detto. I collegamenti giù, io non faccio collegamenti, a livello locale, così, a livello locale c'ho lì Polo 15, 20 e 40, che è una setta, un lavorato Marco, chi ci sceglie degli avvocati, per come è piazzato, così in alto, picchia forte, e poi se vuoi fare due chiacchiere in 10 metri, sempre a livello locale, uso la Mantova, che problema c'è, quindi c'ho 10, 20, 15, 40, ce li ho tutte le bande, non è che... un di polo anche degli 80 metri io posso montare, però la direttiva le tolgo, mi interessa, le tolgo, non mi ne voglio niente, devo far vedere i visori direttivi, la fago, sono in chili, da quando le ho montate le avrò fatte girare 6 o 7 volte, quella dei 6 metri, no, oggi mi hai fatto un collegamento, non per mai trattata, ma togli tutto, via. Lascio le cose essenziali, due antenne lascio e basta, l'importante non mi manchino le V e le U, perché Massimiliano, non c'è solo il sistema grande, c'è anche il sistema piccolo, non l'hai visto? Il sistema piccolo c'è la monobanda a 3 elementi per i 10 metri, c'è la 17 elementi delle V e la 12 elementi delle U. Lì ci sono altre tre direttive nel sistema più piccolo. Quindi non bisogna antenne gabitudini. Vabbè, adesso vediamo cosa decide Andrea. Aspetto che sia libero lui. Poi ho goduto. Va bene, avanti Massimiliano. Ma che cosa si è fatta? C'è le 7:30 già, bubù. Le 7:30 sono. No vabbè, io non è che deve decidere gli altri a casa mia. Io decido quello che mi devo tenere e quello che devo lasciare. Io, se non state in te, prima di smontare tutto avrei fatto un paio di foto e me l'avrei avato tutti gli altri di là, dice Antenni. Poi mi avrei preso una bella verticale che mi fa gli 80, 40, 15, 20, e guarda la mano va tanto qui. Ti metto una bella verticale, ci lasci la mantova, ti lasci le V, le U e sei a posto. E sei a posto, cosa te ne vai? Di avere un tetto pieno di antenne e bagosa, per far vedere che vai antenne. Se non le usi conviene toglierne tutto e sei più tranquillo. Perdonatemi 2 minuti, ma io devo scendere al secondo al volo giù e devo girarmi le bietole. Riprendi giù. Ok, Massimiliano. Sì, hai detto bene, mi. Hai detto bene, sei tranquillo. Ma sei veramente più tranquillo, anche in senso, tu lo sai, qua, mai possa succedere una cosa del genere. Tu lo sai, più fai un certo partenza, più e più attiva una certa scarica. È meglio invece, dovete considerare che non li usi, da vaniglia non si va da più. Per cui, per carità, è meglio che non scheda mai niente. Però lo sappiamo, per l'esperienza, che il metallo, le antenne è attiva, no? È attiva. Tu mi dirai, va, ci vuole fortuna, certo, ci vuole fortuna nella vita, ci mancherebbe altro, anche l'antenna della TV. Quella cosa lì, certo, anche questo. Però meno ce n'è e meno possibilità c'è, perlomeno così si pensa. È su butto, non lo so. Ma dimmi a tutto, stai parlando di Andrea, ma Andrea bene si sente, come fa? Sì, è al telefono stasera, sì. È stanco anche lui perché c'ha sempre da fare, cosette. Però c'è questo ginocchio che le fa sempre male, è in pensione Andrea, quindi c'è lavori sempre da fare a casa, o qualche amico le chiede qualcosa, capito? Infatti anche stasera la dovrebbe fare, la prima volta a Mare Puglio, poi mi ha chiamato lui e mi ha detto appunto che stava facendo due cosette a un amico. No, già sta bene, sta bene. No, viene lui perché lui sa come smontarla eccetera. Giulio, 3 mesi ce l'avevo io l'impianto che ho, 3 mesi, La mia fortuna è che è caduto il fulmine a 20-30 metri, capito? Attaccata alla cabina elettrica, e ci ho rimesso tutti gli elettrodomestici, fortunatamente la casa niente, tutti gli elettrodomestici, due radio grosse, FT1000D, Norton Millone, il 940, ci ho rimesso il computer che l'ho comprato nuovo alla Lucca, ci ho rimesso un sacco di cose, alimentatori, un sacco di dinà, quindi il colpo l'ho preso io, fortunatamente è meglio di qualcuno che mi dispiace tantissimo. Però io l'ho preso, ecco perché rimane il fatto che la decisione è al 90% anche indirizzata a quella, perché io d'inverno lo temo l'inverno, capito? Ma non perché ne calano le antenne, il mio impianto è fatto a regola d'arte, è fatto veramente bene, è montato da gente competente, non di certo da me, e non temo né i venti né nulla, temo i temporali li temo tantissimo, e quindi a parte che non le uso, la decisione è quella di togliermi tutto. No, è verticale Massimiliano, non ci muoviamo a verticale, non aggiungo proprio attività. Io quello che ho uso, ho un dipolo dei 40, vuol dire userò i 40, ho un dipolo dei 20, userò i 20. Quello che non ho non lo uso, non mi interessa. Ragazzi, mo gura antenne ma puni gli altri. Non metto nulla, lascia perdere. Capito Giulio? Io il colpo l'ho preso, ce l'avevo 3 mesi l'impianto piazzato, 3 mesi, era ancora in fase di collaudo. Mi arrivi da un'imbalzinata, un temporale, salvavita, però dove è entrato, ha appiccicato radio, computer, alimentatori, balle e poi va. Appunto, qua, ma c'è ragione, appunto, per avere un po' più di prudenza, non si sa mai, sai, e tu capisci benissimo che quando c'è molto metallo, attira di più, dai, diciamo così. Poi, naturalmente, tu ti sei subordinato anche alla fortuna delle persone, questo è l'ultimo, che per quello anche a me non aveva bruciato il resto. Però non è che era arrivato da me, era arrivato in una casa e di via Laria, da dove abito io, era a 200 metri. Poi preso l'antenna TV di questo signore, che fortunatamente era appena sceso dall'altezza, stava piazzando l'antenna. 5 minuti dopo che era sceso dall'altezza, è arrivato questo fulmine proprio sulla sua antenna che aveva appena piazzato. E ha fatto un sacco di danno qui a dei punti, non certo. A me aveva bruciato un baracchino, anzi due baracchini. Uno del metatore e il router del computer, l'avevo bruciato. E dunque ho dovuto comprare anche il router nuovo, eccetera, eccetera, del computer. E a questo punto vedi bene che non lo. E poi qui vicino c'è la pasticceria, gli avevano bruciato il gruppo elettrogeno, se puoi immaginare. A 800 metri di distanza da quella casa c'è un gommista ed aveva bruciato il bottone del compressore. L'aveva fatto il danno, senza considerare poi tutti i frigo che ha bruciato qui nella zona, eccetera. Sono cose che purtroppo possono succedere, indubbiamente, però un po' di prudenza non guasta mai. Ho ripreso, Sì, Massimi. No, Massimiliano, c'ero io. Era mi vedere in faccia. Arrivato sto temporale, abbiamo aspetto la bettomiera. Ci siamo messi dentro perché stavo finendo giù la tettoia. A prendere il suo zocco, ma zocco, boom! Fulmine tuono tutto assieme. È mancata la corrente. È andata sopra Massimiliano, tutto incendiato. Le radio staccatevi, Giulio. Tutto incendiato, nel senso bruciato. Baracchino, cosa aveva bruciato Massimiliano? Il computer non aveva toccato, il RUC cos'era partito? L'impianto ADSL? Sì, è partito tutto l'impianto ADSL, compreso router, mi ha bruciato l'S9, un alimentatore e un lineare a 4 finali. E Massimiliano cosa c'ha sul tetto? C'ha l'antenna del ricevitore, un discone e la Mantova. Ma è andato gaggi, non è venuto da va, Giulio, capito? Certo, se te lo sto dicendo, una volta, e questo è successo, due anni fa, cosa hai detto? Non è successo, per fortuna non è successo a casa mia, è successo nella casa che è in linea d'aria 200 metri da dove abito io. Pensa che all'ingresso della casa c'è il tubo del gas, no? Quello gli ha attraversato il tubo e gli ha incendiato. Sono dovuti arrivare i pompieri per spegnere il tubo davanti alla porta d'ingresso di questa casa. Per dirti, ne fa danno, altro che. Prova a chiedere a Roberto Quadrato, di una volta in campagna da lui, dove c'è hanno un campo di calcio. Un fulmine gli ha troncato in due un albero, ma un albero bello grosso qui, gli ha troncato in due, è una bufalatura, non scherza, con l'apparaggio che ha, migliaia di ampere ha il fulmine, si può immaginare. Avanti Massimiliano. Lo so, purtroppo è successo a me, perché io poi alla fine, quando sono salito qua, così, no, ho acceso la radio e la ricezione ce l'aveva, ma mi ha bruciato i finali, capito? E in più mi ha bruciato qualche resistenza sia dentro la radio e sia dentro il lineare. E comunque li ho messi a posto, qua 100 euro. Certo, mi sono spese, dunque, che capita, è già quello, e dispiace, certo che dispiace. Se questo succede così, cose del genere, va bene, tu immagini quando suo amico, grazie, perché gli ha distrutto la casa, gli ha distrutto, e quando gli aveva messo una tragedia, non è popolo. E meno male che non c'era lui lì, seduto lì. Voglio dire, nel senso che se è caduto proprio lì e lui fosse stato seduto nella sua poltrona, magari chissà cosa avrebbe subito anche lui fisicamente. Per fortuna non c'era. Il fatto che non c'era chiaramente gli ha comportato quel danno grande, grandissimo, perché non c'era nessuno a casa, era il posto di lavoro, lui era il posto di lavoro, e quando è rientrato si è trovato i pompieri a casa, e il discorso è questo. Quella è una cosa che non si può raccontare, se l'ha seduto lì non te lo raccontava, ma stai scherzando, tu hai visto le foto, io sì, ma è una cosa da paura, veramente è una cosa che dispiace, perché un sacco di quattrini per rimettere tutto in ordine a posto, però il fumo è così. E io Massimiliano, io 3 mesi ce l'avevo l'impianto, ma è ancora in fase di collaudo, mi è caduto a 20 metri, 30 metri da dove sono seduto io, mi dietro all'angolo della cabina elettrica, incendiato, siamo rimasti tutto il giorno senza luce, mi perché è arrivata l'Enel, 3 squadre dell'Enel hanno dovuto cambiare il trasformatore della cabina, aprire di nuovo la cabina, mi c'era il vigile del fuoco, hanno rifatto il tetto nuovo alla cabina che c'è qua attaccata a me. Io ci ho rimesso il Mellone, l'FT1000D, ci ho rimesso il computer, ho dovuto comprare nuovo, la Luca, alimentatori, scaldabagno, lavatrice, cosa tutto non è partito? Tutto l'impianto ADSL, allora avevo la DSL, infatti non la giubbotto più, c'è un altro sistema per il computer, io lo stesso, sono stato fortunato che non è entrato dentro casa, però mi ha pizzicato pure a me. Purtroppo è così, non c'è niente da fare, bisogna tapparsi, infatti io questo inverno voglio essere tranquillo, tetto pulito e tutto. E ne sto anche approfittando, perché ne voglio approfittare anche perché c'è ancora l'autoscala, quindi se ho qualcosa da scendere, ne la scendo direttamente giù a casa, capito? Le scatole sono tutte su, le lascio su, le pulisco, le faccio, no, interrogo tutto, dalla lazzetta, lascio la manta, vado a vedere, non la sposto neanche, e al posto della direttiva ci metto la verticale nuova, non metto neanche quella che è già vecchia, che è già stata riparata, ma l'ha riparata Andrea, e metto la verticale nuova, che ce l'ho su massata nuova, metto la 510 nuova, lì, e boh, al posto proprio la direttiva, tutto il resto ci sarà, il dipolo rimane dov'è, che non si vede neanche, e lascio la manto con la bibanda V, basta. Usa la verticale Massimiliano, non piace più nulla, uso quello che ho in uso, 40 metri, 40, 20 metri, 20 metri, dipolo e tribanda, 15, 20 e 40, uso quello, 10 metri non ne ho, non ne faccio. Se devo fare un questione per locale la faccio con la mattona, che mi intende, che non mi intende ci buono i guffi. Sì, anche tu hai ragione, ma una verticale, diciamo, multibanda te la puoi mettere, capito? E tanto è come la mantova alla fine, non è che ti prende questo grandissimo spazio. Visto che c'hai già tutte le calate, tutto quanto, l'unica cosa che vi toglie sono rotori, cavi, cavettini, controbox e tutte queste cose. Cioè, ti ripeto, secondo me poi ognuno è libero di fare come vuole, però finché io le sto usando, che faccio attività, nel senso che proprio ci parlo e attenzione, mi tengo tutto, rotore, mi giro l'antenna, col controbox e va bene. Ma se devi solo ascoltare e non ci devi entrare, magari ti guardi là, tenerti tutto che San Baramasso per il tetto, fatelo in quattrini, quello che ti voglio dire. Sì, ma infatti farò così, farò le foto prima lì, mi stai scendendo tutto. No, non è molto verticale, verticale anche a tirare il fulmine, mi lascia per lì, no. L'affilare lascio, l'affilare, intanto le bande che piacciono a me sono 40 e 20 e 15, basta, non me ne fotti di nulla, ma di fa a posto del sistema delle direttive, lì ci metto l'antenna nuova, voi, basta. L'altra la tengo di scorta, metto anche l'altro sistema piccolo, ho finito, non dobbiamo avere nulla, o un affilare per fare due chiacchiere, intanto io io qua sono, e qua muoio, non è che mi interessa più di tanto. Capito mi hai? Va bene così. Intanto poi, se va in porto quello che tu sai, allora è un altro discorso. Spero di potercela fare quest'anno, vediamo un po'. Va bene, va bene. Che ora si è fatta? Maria, ma le 8 meno 10 sono, Giulia. Bene. Sì, le 8 meno 10 sono, sì. Per 10 minuti. Allora, vi saluto e vado al sistema americano, intanto visto che è ancora sdraiato e drumido, quindi non ha gana di uscire. Riprendi Massimiliano. Sì, dai, io mi faccio qualche altro passaggino che ho. Faccio la zea, andendo, intendo un fiago dai occhi. Poco fa quando vi ho detto scendo giù a guardare, deve essere che ha bollito l'acqua, ci è uscita fuori dalla pentola e mi ha spento il gas. Meno male, vabbè, già c'ho di quelle cucine all'avanguardia, che come si spegne il gas e si chiude la valvola e non esce. Manco male. Siamo anche lì, e allora segui quello che stai facendo, che è più importante, beh. Tanto un altro passaggio, sicuramente anche Giulio, fra un po' lo chiamano, anche perché poi c'è la Roma sul primo, Porto Roma, ma si vediamo, bella partita, ma la voglio guardare. Avanti Giulio. Sì, beh certo, infatti è così, come hai detto tu, qua. È così, sì. E fortunatamente oggi ci sono con le cucine, o quasi le e sono molto, c'è un'applicazione molto importante, perché alle volte si spegne, uno non se ne rende conto, e può succedere che esce fuori il gas, invece in questo modo automaticamente quando si spegne, e basta. Certo. Sì, ripeto, ma poi c'è anche un'altra cosa da dire. Il diporo, se tu ti metti un diporo, quando non ti va più, prendi, lo pieghi e lo conservi, lo metti nel un cassetto per dire, quando ti fa di nuovo comodo te lo puoi rimettere. Questo, se uno vuole, ci sono tante possibilità. Ripeto, io quando mi metto l'ascolto, ad esempio in 40 metri, anche 20 metri, eccetera, mi sento queste animature parlando, no, io sto andando con un diporo autocostruito, eccetera, eccetera, così e qua, messo così, messo qua, eppure è vero che fanno attività ugualmente, è il problema di tutto. Senza prendere un patrimonio, tra l'altro, no? Purtroppo, arrivano forte, aspetta, ma arrivano 9.10, 9.20, 9.30, anche, ma arrivano. E dunque, ma arrivano con quel segnale, ammesso anche che stiamo usando un lineare, però il segnale c'è, e la potenza ce l'hanno, e dunque sono in grado di fare attività ugualmente. Va bene, avanti qua. Guarda, io con il diporo che ho, che è super colorato, i segnali più bassi che mi danno con la potenza della radio sono sempre oltre 9-10, quindi faccio anche dei bei collegamenti, ho fatto anche, quindi non ho problemi, sempre con quello, perché io nelle direttive ho 10, 15, 20, non ne ho kit dei 40, quindi dei 40 ho usato sempre il diporo, sono arrivato da tutte le parti, perciò poi ti ripeto, non è un problema perché l'attività non la sto facendo, non mi interessa affatto. Quindi sono già d'accordo, eravamo già d'accordo con Massimiliano già quest'estate, perché invece venire lui a aiutare a me sono dovuto andare io a aiutare a lui perché stava facendo i lavori e quindi abbiamo lasciato perdere. Ma quest'estate è già in programma, tanto lui ha terminato le cose, un sabato, una domenica, appena libera Andrea, saliamo e il mio problema sai qual è? Che il mio telescopico ci vuole forza, una volta che mollo devi mantenere e poi piano piano abbassi, una volta che io ho tutto abbassato, che ci lavoro ad altezza normale, perché ci arrivo già con la scaletta da 2 metri, sono andato, mi ho controllato il rotore, mi hanno fatto un lavoretto con Massimiliano, non è alta, non c'è bisogno di alzare in picco a traliccio, io non ne ho traliccio. Quindi una volta che io ce l'ho abbassata, ci rimuovo in tutta andata, io piano piano, giorno per giorno mi metto, ne smonto una, me la pulisco, me la conservo, capito? A me interessa che vengano a abbassarmi il sistema, una volta che è abbassato poi mi arrangio io, no? Non ce n'è problema, mi smonto tutto, quello piccolino me lo smonto da solo perché è altezza d'uomo, quindi no, non è un problema Giulio, capito? Però ne voglio tutto. Assimilia ai cavi, li tiro su e li lascio su, cosa sto a tagliare, a fare, non me ne ha fottuto. lascio su, capito? Anche perché io c'ho un unico cavo di discesa, non è che, perché ne vedi tanti, ma quelli sono cavi vecchi, però io ne ho uno, gli altri sono, quelli delle direttive sono tutti attaccati alla centralina del commutatore elettronico comandato laggiù, quindi stacco la tensione del commutatore, oppure quello si può lasciare perché è una sorta di staccantenne diventa, capito? È molto importante perché ha relè, quindi una volta che tu chiudi relè lì tensione non è passa. E basta, il resto ti lo butto e tiro sui caffi. Quindi viene anche un bel lavoro, tutto organizzato, ben pulito, ben fatto. Pigio il tutto. E chi si è visto, si è visto. Va bene, riprendi Massimiliano. E adesso bisogna vedere se riusciamo a mollare quel bullone che avevo stretto, però. Mosso c'è quel palo qua. È una mazza che teniamo, io se lo vuoi chiamare a stringerti un bullone, o Giulio. Cioè il tubo da 52, no, da 56, tubo da 56, da 2,5 pollici, no? Aspetta, Massimiliano, stringimelo che questo mi sembra lento. Lì dopo la gerba cricchetto, non mi ha pigiato lo dubbo. Allora, senta. Oh, guarda, ha fatto bene lì, guarda, perché adesso ti spiego. Io avevo il palo dell'antenna, no? Poi attaccato al palo dell'antenna avevo fatto un braccio a livello di tetto e ti avevo messo una parabola, ti avevo messo delle satellitari, no? Però sai che stretto, ma stretto veramente con tutta la forza il tubo, come la televisione e non funzionava più la parabola, ma cosa è successo? Ma allora ed era fuori orientamento, perché a forza di vibrare col vento, nonostante che era stretto, ma stretto veramente, mi spostava il tubo, girava, essendo solo storno, la vibrazione girava, e che girando, siccome era attaccata al palo dell'antenna, girava il palo dell'antenna, girava anche la parabola. Non avevo più segnale perché era fuori orientamento. E allora cosa ho fatto? La staffa che c'è più in basso di tutto, ho preso il trapano e ho bucato la staffa, una cosa da 4 mm, 5 mm con una punta a niente, e ho bucato la staffa e il tubo. Nel caso ho voluto che mi sia stata anche la punta, mi si è spezzata proprio quando ero a fine. Beh, così l'ho lasciato dentro la punta, non si è mai più girato. Perché? Perché quella punta fa da ferro e non si gira mai più. E beh, perché ormai anche se non è passato dall'altra parte, quello lì ti blocca la staffa col palo, capito? E vabbè, un po' di voce ancora già c'è, capito? Io sono giovanotto, quindi Giulio, un po' di forza ce li abbiamo. Lo so, capisco, Massimiliano, ma devo dirti che anch'io ho stretto forte, poi non è che sto parlando di oggi, sto parlando anni fa. È bello stretto, ma veramente stretto. E non, per dirti, non è che era, ma veramente forte, almeno con tutta la forza che avevo, stringevo, non si gira in una maniera, perché l'avevo intuito, la parabola magari mi fa girare il palo. E così è stato, perché vibra oggi, vibra domani, vibra così, va dietro, da 2 piedi, un mese. Alla fine bastava girarsi appena appena anche di 2 centimetri, la parabola va fuori orientamento e il segnale non ne vedi più, si sente che è così, o sei puntato o sei fuori, sono puntata, dunque non puntatura, volevo dire, non puntata, puntatura, o sei fuori, per cui non ce ne sarà a fare, claro. No, ma Edo è va alla morsa, rimane, poi io sono Gervie, dove Andrea, ti sono uguale, tu due, tre niente, mio matto, no, ma quel piantone Massimiliano lo volevo togliere, no? Dove hai stretto tu? No, quello rimane lì, e si scende l'altro telescopico, quello che è più in alto, no? Capito, per abbassare l'antenna, quello rimane lì, perché poi lì ci metto la verticale che è in punta al traliccio, quella la tolgo e la metto lì, nel tubo che rimane, basta, nella stessa posizione, capito? Quindi quello è meglio che sia stretto così bene, cioè le viste, le staffe, tutto, rimane lì e basta. Va bene, signore mio, Filippo è qua, vi saluta, vero no? Corretto, adesso andiamo. Vado a portare il cane, tanto sono già le 8. Buona cena a tutti, salutoni, grazie delle due chiacchiere, ciao Massimi, ci aggiorniamo telefonicamente, ciao Giulio, grazie della compagnia, chiunque fosse naturalmente in ascolto sul canale 10, un saluto circolare a tutti. Ok, ascolto il finale e poi chiudo. Vai Massimiliano. Sì, anche io ne approfitto, dai, io già lo sai, ho il gas acceso giù di Azea, quindi non voglio fare casino perché sono da solo e loro sono a una festa di un compleanno di un bambino che c'è a scuola con Gaia, quindi rientrano fra una mezz'oretta, là, però io vado a fare qualcos'altro. Dai, anche io chiudo, dai Giulio. Ciao Cla, ci sentiamo, ci aggiorniamo. Ciao anche a te Giulio. Mi piace così però ogni sera così fare un po' di chiacchierelle così là. Sì. Va bene, dai, a tutte e due, buona serata e buona continuazione. Avanti Giulio, ciao ciao. Ok, ciao Massimiliano, certo, è bello, è modulare così, poi un questo così molto pacato, molto tranquillo, senza interferenze, senza niente, fa veramente piacere. Poi quando si sono amici OK, è ancora meglio, come voi appunto. Ciao qua, alle prossime, a domani, dai, ci sentiamo. Perché lo sai, adesso mattina la sera, bene o male, già una puntatina che ce la facciamo sempre al baracchino. E ci sentiamo, dai. A domani, di nuovo salutoni e grazie per il questo. Ciao Massimiliano, grazie, ciao Claudio, grazie, ciao, a domani. Buonasera. Ciao, buona serata, buon tutto alle prossime. Tu eri trasferta e noi eravamo qua. Ciao già, sto chiudendo, è tardi, ciao a tutti. Ciao Gabi, adesso si è arrivato. La capita, diciamo, il baracchino qui, come acceso c'era gente e mi sono fermato. Poi ho fatto un po' di ascolto qua, no, mi stavo ascoltando, dico la verità, ero un po' rilassato. Passando un po' e vi ho ascoltato piacevolmente, ma se non sono entrato con la verità, io vale la pena. Ok, già, non c'è problema, ci mancherebbe altro, figurati, se uno non ha voglia, non ha voglia e basta, è inutile stare lì, che problemi ci sono. Non c'è problema qua, già, figurati. Ascoltando là e va bene anche, perché no? Ognuno fa quello che crede, nessuno deve prendere ordine da nessun altro, per cui va bene lo stesso già. Va bene, anch'io adesso scendo per la cena, tanto sono già le 8, come 8 anche passate, di un minuto, di due minuti la storia della testa, le 8 di due minuti, perciò è ora di cena anche per noi. Dei bubbli che ti ho fatto, perché Massimiliano stava, non so se quello l'hai raccontato, Massimiliano con del materiale di recupero di un mobile che aveva già, si vuole fare un mobiletto appunto per la radio, e infatti allora io ho preso una palla al basso e io gliel'avevo fatto con i fontelli, perché anche lui vuole fare con i fontelli, l'avevo fatto a Gianni, l'avevo fatto e poi ho fatto anche il mobile dell'acquario, gli ho fatto un mobile dello stereo, insomma. L'abbiamo fatto, tranquillo, contento, ma pagato, proprio così gli ho detto, meglio di così può andare nella vita. Non so se ho fatto bene o ho fatto male, ho già. A proposito, Giulio, passa a prenderti i miei 10 ultimi che ancora non te li ho dati. Raga Petit, secondo me lei ha dimenticato il Cabomacco, andate a perdere. Vabbè, comunque, sono lì, in favela e in favela ma a posto di mio Cla. Va bene, dai, ciao già. No, io sto andando adesso, ormai fino alle 8 mi trattengo sempre in radio, vai. Ma siamo boh, dalle 6 e mezza forse, una cosa del genere. Non ti ho sentito, stavi scambiando due chiacchiere poco fa, perché anch'io quando ho acceso ce l'avevo sul 20, poi ho girato e ho sentito Giulio chiamare che era al telefono con Andrea. Stiamo organizzando a smontare le antenne. Va bene, dai, continuate voi allora, se ci siete a dopo, altrimenti buon fine serata a tutti, vai già. Sì, allora, d'accordo Claudio, buona passeggiata, pronto già Morantino, dai. Un attimo il telefono. Ok, già, d'accordo, va bene, va bene. E poi anche quello c'è e bisogna usarlo. Più, di sabato che mi ha chiamato un padre, sto scendendo in città. Ok, già, a domani allora, se coincide, ciao, ciao, alle prossime.